questo mese di marzo iniziano una serie di appuntamenti più densi, più frequenti per il centenario di San Pio X Giuseppe Sarto, con la musica e la sigla iniziale che è composta da parte delle note del ritornello dell'inno ufficiale per il centenario composto da Monsignor Marco Frisina. Entriamo dunque nel nostro consueto appuntamento settimanale per segnalare alcuni aspetti della sua figura, e oggi in particolare parleremo della musica, della sua passione fin da bambino per la musica. Partiamo però dagli appuntamenti prossimi. Dopo il concerto di sabato 8 marzo alla chiesa di Riese Pio X, verso il XX secolo, il canto solistico sacro nel contesto europeo con il soprano Marina Bartoli e l'organista Daniele Carretta, iniziano i pellegrinaggi vicariali con la prima domenica di Quaresima, proprio questo 9 di marzo, il primo appuntamento alla chiesa arcipretale di Riese Pio X. Tutti i pellegrinaggi dei vicariati della diocesi di Treviso passano nel periodo di Quaresima in luoghi, nei luoghi, nelle città, appunto nei paesi di San Pio X. Primo appuntamento il suo paese natale, e quindi la chiesa arcipretale, con gli arrivi previsti alle 15:15, alle 15:30 la preghiera del vespro, che sarà presieduta dal parroco. A seguire la predicazione e la meditazione a cura di Monsignor Stefano Chioatto, la preghiera a San Pio X, il bacio della reliquia. Alle 16:30, quindi un incontro di circa un'ora, benedizione e canto finale con la visita alle memorie locali di Pio X, evidentemente la casa natale nello specifico, e anche il santuario delle Cendrole. L'appuntamento di questa domenica 9 marzo nel pomeriggio è per i vicariati di Castelfranco Veneto, Nervesa e Montebelluna. Domenica 16 marzo la chiesa arcipretale di Tombolo, il programma è lo stesso, quindi dalle 15:30 alle 16:30 per i vicariati di Castello di Godego, Asolo e Campo San Piero. In questo caso la visita sarà al piccolo museo di Tombolo nella chiesa parrocchiale. Lì a Tombolo Giuseppe Sarto fu cappellano. Poi si passa alla parrocchia di Salzano, dove fu parroco per 9 anni. Domenica 23 marzo per i vicariati di Mirano, Noale e Mogliano Veneto. In questo caso la visita sarà l'adiacente museo San Pio X, molto ricco. C'è anche una copia appunti del primo catechismo, il famoso catechismo di Pio X, su cui i nostri genitori, i nostri nonni hanno studiato. Si chiude il mese di marzo, domenica 30, nella chiesa cattedrale di Treviso, perché Don Giuseppe Sarto diventò poi canonico della cattedrale e anche vicario generale della diocesi. I vicariati attesi in cattedrale il 30 marzo sono quelli di Treviso città, paese, Spresiano, monastiere, San Donà di Piave. La visita sarà al seminario della cappella Santo Curato d'Ars e la biblioteca San Pio X. Questi dunque gli appuntamenti. I sabati precedenti ci sono sempre appuntamenti musicali, già citato quello di Riese, nella medesima chiesa, quindi a Tombolo sabato 15 con il canto gregoriano, a Salzano sabato 22 sulla polifonia, in cattedrale a Treviso sabato 29 sulla riforma della musica sacra di Papa Pio X, sabato 5 aprile lo Stabat Mater per soli, coro e orchestra, qui saremo al Duomo di Castelfranco Veneto, e la domenica 6 aprile ci sarà un'altra tappa dei pellegrinaggi. Questo per sottolineare appunto la passione musicale di San Pio X, non solo da pontefice, non solo da sacerdote, ma fin da bambino. Lui faceva parte del coro dei piccoli cantori del suo paese natale, Riese. Fu il cappellano Don Pietro Iacuzzi a insegnargli i primi rudimenti musicali, e anche nelle vacanze autunnali Don Pietro continuò a seguire il giovane Giuseppe anche quando era chierico del seminario di Padova. Infatti Giuseppe Sarto ha fatto il seminario a Padova e non a Treviso, e si manteneva sull'argomento una serie di rapporti. Evidentemente gli hobby di Giuseppe Sarto erano lo studio del latino insieme alla musica, e quest'ultima quasi quasi la preferiva, la coltivava anche nei ritagli di tempo. Infatti da seminarista a Padova compose una 15ina di pezzi adatti alla Settimana Santa e fu anche eletto direttore della cappella musicale del seminario. A Tombolo, già citata la sua prima parrocchia da cappellano, formò una scuola di pueri cantores, oggi le chiameremmo voci bianche, e a Salzano da parroco curò molto anche personalmente la musica nelle solennità liturgiche. A Treviso da cancelliere vescovile dedicò il suo tempo libero alla musica, guidava i chierici che rinunciavano alle passeggiate, insegnandogli il canto gregoriano con la sua bella voce chiara, profonda e baritonale. Sappiamo anche che tonalità aveva Papa Pio X. A Mantova, quando fu vescovo, istruiva personalmente i chierici nella musica sacra e con questi sostituì i cantori della cattedrale che invece utilizzavano, come succedeva appunto alla fine dell'Ottocento, lo stile teatrale e melodrammatico. Quando diventò patriarca di Venezia, iniziò a frequentare il giovanissimo Don Lorenzo Perosi, che fu incaricato di dirigere la cappella di San Marco da Papa Leone XIII. Con Perosi poi si sviluppò una grande e strettissima collaborazione. Da patriarca a Venezia, Giuseppe Sarto diffuse una lettera pastorale in cui ribadiva che il canto e la musica avevano la suprema finalità di essere preghiera liturgica. Le caratteristiche dovevano essere la santità del canto, la bontà dell'arte e l'universalità. Quindi tutti dovevano cantare e non doveva essere un'esecuzione, come andare a teatro e sentire il cantante che cantava. Succede ancora tuttora in alcuni matrimoni, penso in alcuni matrimoni, ma anche in alcune celebrazioni liturgiche. Scriveva così il cardinale Giuseppe Sarto: o se si potesse ottenere che tutti i fedeli come cantano le litanie lauretane e il tantum ergo, che sono melodie molto semplici, così cantassero le parti fisse della messa, il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus e l'Agnus Dei. Questa sarebbe per me la più bella delle conquiste della musica sacra, perché i fedeli, prendendo parte veramente alla sacra liturgia, conserverebbero la pietà e la devozione. Era il tempo in cui durante la messa si recitava il rosario e non si partecipava assolutamente alla celebrazione o molto così distrattamente solo al momento della comunione o della consacrazione. E dunque Giuseppe Sarto contribuì a cambiare, già a introdurre alcuni aspetti di quella che poi diventò la riforma liturgica del Concilio Vaticano II.